Vogliamo prendere posto e leggere subito dalla parola di Dio. Sappiamo che ci troviamo nel libro di... Benissimo, grazie, perché vi vedo tutti nella stessa pagina della Bibbia, sia al primo incontro sia questo, e ci troviamo nel capitolo... C'è qualcuno che è il capitolo 25, c'è chi è nel 26, qual è il capitolo giusto? Proprio si divide questa in questo incontro. Ci troviamo nel capitolo 26 oggi, ok? Fino a ieri abbiamo letto il 25 e oggi leggiamo il capitolo 26. Ora, questa è una lettura, come quella un po' di anche di ieri, molto particolare. E io voglio leggere questo capitolo con voi perché credo in quello che stiamo facendo. Io credo che quello che stiamo facendo è proprio quello che Dio vuole, che noi viviamo la parola di Dio ogni giorno. Questo non è solo una buona e sana abitudine, questa è un'abitudine che porta vita, questa è la sopravvivenza per la nostra vita spirituale. Vuoi sopravvivere e vivere spiritualmente? Devi cibarti ogni giorno. Nessuno di noi mangia una volta a settimana. Se tu mangi una volta a settimana, venimene a parlare, perché dobbiamo trattare un problema importante. Io, grazie a Dio, mangio pure più di una volta al giorno. Se è vero nel naturale, è molto più vero nello spirituale. Abbiamo bisogno di cibarci quotidianamente, quindi quello che noi facciamo leggendo ogni giorno un capitolo della Bibbia non è solo una buona abitudine che apre bene l'anno 2021, ma è proprio sostanza di vita per la nostra Chiesa, sostanza di vita per ciascuno di noi. Quindi leggere ogni giorno è fondamentale ed è per questo che la scorsa settimana abbiamo parlato del fatto che noi come Chiesa, in questo nuovo anno e a partire da questo nuovo anno, vogliamo fare ogni sforzo necessario affinché ognuno di noi viva Cristo ogni giorno. Non ci salutiamo più a fine dell'incontro, ci vediamo domenica prossima, ma oramai ci saluteremo, e lo farà Sara oggi per noi, ci vediamo domani, perché insieme vogliamo essere uniti nel leggere ogni capitolo della Bibbia che insieme stiamo decidendo di leggere, perché ogni capitolo della Bibbia e ogni verso della Bibbia è parola di Dio. E in 2 Timoteo, al capitolo 3, versetto 16, c'è scritto che tutta la scrittura è utile. Tutta è ispirata da Dio ed è tutta utile. Anche il capitolo 26. Ora, per me, leggere questo capitolo è proprio una sfida bella, perché, sapete, non vi capiterà spesso che qualcuno vi leggerà il capitolo 26. E vi capiterà molto, molto meno spesso di sentire un pastore che incomincia la sua predica col capitolo 26 di Esodo, e fra poco lo scopriremo perché. Però a me piace quello che stiamo facendo, a me piace essere anche fuori dagli schemi, e quindi noi non vogliamo essere convenzionali o popolari in quello che facciamo, vogliamo credere veramente che tutta la Bibbia abbia qualcosa da dirci. Quindi leggiamo dei teli, delle assi, delle basi, dei veli, di tutto quello che ha a che fare nella lettura di oggi del tabernacolo di Dio. Quindi leggiamo insieme. Farai poi il tabernacolo con 10 teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati. La lunghezza di ogni telo sarà di 28 cubiti, e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Tutti i teli saranno della stessa misura. 5 teli saranno uniti insieme e gli altri 5 teli saranno pure uniti insieme. Farai dei lacci di color violaceo all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie, e lo stesso farai all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie. Metterai 50 lacci al primo telo e metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. I lacci si corrisponderanno l'uno all'altro, farai 50 fermagli d'oro e unirai i teli l'uno all'altro mediante i fermagli perché il tabernacolo formi un tutto unico. Farai pure dei teli di pelo di capra che serviranno da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli ne farai 11, La lunghezza di ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Gli 11 teli avranno la stessa misura. Unirai insieme 5 di questi teli da una parte e 6 teli dall'altra. Ripiegherai il sesto sulla parte anteriore della tenda. Metterai 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della prima serie e 50 lacci all'orlo del telo che è all'estremità della seconda serie di teli. Farai 50 fermagli di rame e farai entrare i fermagli nei lacci e unirai così la tenda in modo che formi un tutto unico. Quanto alla parte che avanza dei teli della tenda, la metà del telo di avanzo ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo. Il cubito che avanza da una parte, come il cubito che avanza dall'altra parte della lunghezza dei teli della tenda, ricadranno sui due lati del tabernacolo, di qua e di là, per coprirlo. Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone, tinte di rosso, e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino. Farai per il tabernacolo delle assi di legno d'acacia, messe per dritto. La lunghezza di ogni asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di ogni asse di 1,5 cubiti. Ogni asse avrà 2 incastri paralleli. Farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale e verso sud. Metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, 2 basi sotto ogni asse per i suoi 2 incastri. Farai 20 assi per il secondo lato del tabernacolo, dal lato nord, e le loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, farai 6 assi. Farai pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore. Queste saranno doppie dal basso in su e al tempo stesso formeranno un tutto unico fino in cima, fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi che saranno ai due angoli. Vi saranno dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, 2 basi sotto ogni asse. Farai anche delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo a occidente. La traversa di mezzo, in mezzo alle assi, passerà da una parte all'altra. Rivestirai d'oro le assi. Farai d'oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse. Rivestirai d'oro le traverse. Erigerai il tabernacolo secondo la forma esatta che ti è stata mostrata sul monte. Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati e lo sospenderai a 4 colonne d'acacia rivestite d'oro che avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento. Metterai il velo sotto i fermagli e lì, di là dal velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Quel velo sarà per voi la separazione del luogo santo dal santissimo. Metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo. Metterai la tavola fuori del velo e il candelabro di fronte alla tavola dal lato meridionale del tabernacolo. Metterai la tavola dal lato di settentrione. Farai pure per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Farai 5 colonne d'acacia per sospendervi la portiera. Le rivestirai d'oro, avranno i chiodi d'oro e fonderai per esse 5 basi di rame. Dopo che leggi un capitolo come questo, la domanda che nasce è una: perché? E forse per chi mi sta ascoltando, il perché si moltiplica a chiedersi: ma perché il nostro pastore ci ha letto questo capitolo? Che cosa ha da dirci oggi, nella quotidianità che noi viviamo, nel 2021, la descrizione così dettagliata di un tabernacolo, che è stata una struttura che è stata utilizzata dal popolo di Israele per un tempo limitato? Perché la Bibbia riporta così tanti dettagli su una cosa che può sembrare così insignificante per noi e non ci dà dettagli su cose per le quali siamo molto più curiosi? Ad esempio, vi siete mai chiesti, ma Giuseppe, il padre di Gesù, che fine ha fatto? A un certo punto non si parla più di lui. Della maggior parte dei discepoli non si sa più la loro storia, a parte che sono tutti morti martiri. Oppure vi siete mai chiesti, ma che aspetto aveva Gesù? Magari se proprio dovevano essere descritti dei teli, magari mi sarebbe più piaciuto sapere com'era il vestito che Gesù indossava e per il quale hanno fatto addirittura gara e hanno giocato a dadi, si sono giocati la sorte su questo vestito. Quanti altri dettagli avremmo voluto avere? Com'è stato cacciato il diavolo dalla presenza di Dio? Per quale ragione? Come mai sono caduti gli angeli con lui? Che cosa è successo? Perché la Bibbia dà così tanta attenzione a dei dettagli che oggi a noi non interessano e non ci dà piuttosto dettagli su altre cose che alimentano la nostra curiosità? La parola di Dio è perfetta. La parola di Dio ha una ragione per ogni cosa. E se noi in Genesi ci ritroviamo a leggere ora e poi anche nei prossimi giorni ci ritroveremo a leggere dettagli su questo tabernacolo, è forse perché Dio ha qualcosa di importante da dirci su ogni aspetto di questo tabernacolo. E io vorrei che noi cogliessimo la ricchezza che c'è in questa descrizione. Perché vedete, la descrizione così dettagliata del tabernacolo di Mosè ci dà la possibilità oggi, ancora oggi, di rivederlo, di visualizzarlo perfettamente, esattamente com'era. In ogni dettaglio. E ve lo voglio far vedere, abbiamo un video, e voglio farvi vedere com'era questo tabernacolo. Questo tabernacolo prima di tutto si trovava al centro del campo del popolo di Israele. Era proprio al centro ed era formato da un cortile, la cui area era proprio segnata da questi teli. Si entrava al cortile da questo telo di cui abbiamo letto e poi la prima cosa che ci si trovava davanti era l'altare dei sacrifici. Questa era la primissima cosa che le persone trovavano, che i sacerdoti trovavano all'ingresso del tabernacolo. Subito dopo c'era la conca dell'acqua, una conca di bronzo che precedeva l'ingresso alla vera struttura. E la struttura era divisa in due parti, il luogo santo e il luogo santissimo. Abbiamo letto dei teli che ricoprivano questa struttura, delle assi che qui vediamo ricoperte d'oro. Era una bellissima struttura dettagliata in ogni aspetto e qui ci ritroviamo nel primo ambiente, il luogo santo. Nel luogo santo abbiamo il candelabro che è nella parte sud del tabernacolo e poi dall'altra parte ci troviamo il tavolo con i pani della presentazione, c'era pane fresco ogni giorno e poi davanti alla cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo l'altare dei profumi e poi la famosa cortina, questo velo che separa il luogo santo dal luogo santissimo. Nel luogo santissimo abbiamo letto che c'era l'arca della testimonianza con il propiziatoio sopra ed era proprio qui che c'era la presenza di Dio. Dio ha scelto attraverso il tabernacolo di dire qualcosa molto chiaro al popolo di Dio e che ancora per noi è molto importante comprendere. Dio ha voluto dire: io voglio abitare in mezzo al mio popolo. Io voglio rendere la mia presenza disponibile al mio popolo, nella mia altezza, nella mia santità, nella mia giustizia, nella mia gloria, nel mio splendore, nel mio essere onnipotente, onnisciente, nell'essere il creatore dell'universo. Io amo il mio popolo, voglio stare in mezzo al mio popolo. Questa è la primissima cosa che ci dice il tabernacolo, ma il tabernacolo ci parla di tutta la storia dell'umanità. Ci ritroviamo la descrizione del tabernacolo in Esodo, come stiamo leggendo in questi giorni, ma la ritroverete fino alla fine anche in Apocalisse, capitolo 15, noi leggiamo del tabernacolo, completamente aperto. perché il tabernacolo ci parla della storia dell'umanità, e la storia dell'umanità che comincia in Genesi è una storia di creazione. Dio crea l'uomo e lo posiziona in un giardino, il giardino dell'Eden, che significa delizia. E in questo luogo l'uomo era in una condizione di perfezione, di integrità, di gioia perenne a contatto con il suo creatore. Voi ve lo immaginate quando Adamo ha preso respiro, ha aperto gli occhi e si è ritrovato in questo luogo con il suo creatore davanti, che gli ha detto: io ti ho creato, tu sei la mia creatura. E Adamo l'ha guardato, ha detto: tu sei il mio creatore, tu mi hai creato e mi hai creato per vivere tutto questo. E insieme, c'è scritto nella Genesi, che passeggiavano, avevano una relazione, un contatto così intimo che l'uomo passeggiava con Dio. Ma la storia della Genesi è la storia di una separazione, di una rottura. L'uomo ha disubbidito all'unico comandamento che gli fu affidato, e quella disubbidienza, quel peccato ha costretto Dio a cacciare via l'uomo. Da dove l'ha cacciato? Beh, c'è scritto che fu cacciato ad est del giardino. Sapete come si entrava, da quale posizione geografica si entrava nel tabernacolo? Da est. L'ingresso del tabernacolo era rivolto ad est, l'abbiamo letto insieme, tutto era orientato geograficamente in modo tale che tu, accedendo da est, facessi un percorso, una progressione verso il luogo santissimo, la dimora di Dio, che era all'estremo ovest del tabernacolo. E attraverso questo Dio sta dicendo: io voglio riavvicinare l'uomo a me. Da quella separazione, da quel peccato, da quel gesto di rottura dovuto al peccato, io voglio riavvicinare il mio popolo, i miei, da est verso il mio luogo di dimora, che è il luogo santissimo. E quello che noi ritroviamo nel tabernacolo è oltre questi teli d'ingresso, come abbiamo visto, la prima cosa era l'altare dei sacrifici, perché il popolo doveva capire che il peccato produce morte. Loro dovevano poter visualizzare che per ogni peccato dovevano guardare agli occhi di un animale che si spegneva, che moriva dissanguato, e dovevano vedere questo sangue che veniva versato in più punti del tabernacolo. Perché il peccato, ieri come oggi, produce morte. Ed è qualcosa che noi dobbiamo renderci conto. Ed è la primissima cosa di cui dobbiamo renderci conto quando vogliamo avvicinarci alla presenza di Dio, che il nostro peccato è la causa della separazione. Non è Lui che ha cambiato idea, non è Lui che ha avuto un sentimento diverso verso l'umanità. Siamo noi, i nostri peccati, che ci hanno separato da Lui. E quindi l'altare dei sacrifici serviva proprio a vivere questo prima consapevolezza. Il mio peccato produce morte ed è necessario un sacrificio affinché io sia lavato dei miei peccati. Dopo l'altare dei sacrifici c'era la conca di bronzo con dell'acqua. Ed era lì che il sacerdote si lavava, si purificava, perché per entrare di nuovo alla presenza di Dio nel luogo santo dovevi essere puro. Completamente puro, e quindi il sacerdote si lavava completamente, poi accedeva. E nel luogo santo cosa troviamo? Troviamo il candelabro, luce, e troviamo pane, cibo. E la parola di Dio ci descrive l'umanità nella quale noi viviamo come un luogo di morte e di buio. Il mondo nel quale noi viviamo è un luogo di tenebre. Ve ne siete accorti? È un luogo buio. È un luogo dove non c'è luce. Ed è per questo che Dio vuole dire: vedete, alla mia presenza, dove io dimoro, invece c'è luce. E alla mia presenza, dove io dimoro, c'è cibo. Perché se c'è un'altra definizione dell'umanità che ci circonda, è che è affamata, e assetata. Il mondo che ci circonda ha fame, ha sete, e Dio dice: alla mia presenza c'è cibo fresco. E poi c'era l'altare degli aromi, dei profumi, che simboleggia proprio la necessità di intercessione, di preghiera. E poi il velo, ancora un velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Ed è qui che forse tutti noi ci ricordiamo quello che è accaduto quando Gesù è morto. Quando Gesù è morto c'è stato un terremoto, ci sono stati altri segni quali il buio totale, un'eclissi. E poi ci sono stati altri segni quali uomini e donne morte che venivano a resurrezione, camminavano in città, in Gerusalemme. Ma il segno più significativo all'atto della morte di Gesù è stato il telo, questo velo, questa cortina nel Tempio. E il Tempio ripropone esattamente tutti gli spazi del tabernacolo di Mosè di cui stiamo leggendo. E il Tempio aveva questo velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo, e all'atto della morte di Gesù si strappa da cima a fondo, completamente. Perché? Perché la morte di Gesù permette l'accesso completo alla presenza di Dio. Ma non è solo nella cortina che noi abbiamo modo di riconoscere Gesù Cristo. Vedete, il tabernacolo è molto importante perché tutto del tabernacolo ci parla del nostro Salvatore. I teli di lino fino ritorto rimbombano questa cosa, che non vuol dire altro che erano intessuti in modo tale che fossero non dei veli leggeri come quelli che siamo abituati a vedere, ma erano spessi. Questo lino fino ritorto all'ingresso sanciva proprio il passaggio dall'accampamento del popolo di Israele alla presenza di Dio, al tabernacolo. E sapete cosa Gesù dice di se stesso? Gesù dice di se stesso: io sono la porta. Io sono quella porta. Tu hai accesso a Dio solo, unicamente, esclusivamente mediante Cristo Gesù. Nessun altro, non c'è religione, non c'è filosofia di vita, non c'è uomo, non c'è guru, non c'è filosofo, non c'è sapiente su questa terra che ti può dare quello che tu hai perso, quello che io ho perso, la relazione con Dio. Solo Gesù è la porta, e Gesù aggiunge: se uno entra per mezzo di me sarà salvato, avrà salvezza. E poi troviamo Gesù anche nell'altare dei sacrifici, ovviamente. Perché noi sappiamo che Giovanni dice: questo è l'agnello. Questo è l'agnello di Dio per la salvezza del mondo. Quando tu vedi, visualizzi la morte di Cristo Gesù, quando vedi i suoi occhi spegnersi, quando vedi il suo volto e lo immagini morire, sospirare per l'ultima volta, devi renderti conto che quella morte è stata determinata dal tuo peccato. Perché il salario del peccato è la morte. E Dio ha scelto di sacrificare se stesso affinché noi che eravamo morti potessimo vivere. Cristo Gesù è l'agnello che ci lava dei peccati. Cristo Gesù è la salvezza per ciascuno di noi. E quando noi desideriamo la presenza di Dio nella nostra vita, non possiamo far altro che ricorrere a quel sangue che Gesù ha versato. Per questo celebriamo la cena del Signore, il pane e il vino che ci ricorda la sua carne, il suo sangue versato, e ogni qualvolta lo facciamo ricordiamo come lui è morto, cosa ha patito, come ha sofferto per la nostra salvezza e per la nostra purificazione. E poi c'è la conca dell'acqua che non può non ricordarci di Cristo Gesù, perché nel nome di Cristo Gesù noi siamo battezzati e lavati dalla vecchia vita per vivere in una nuova vita con Lui. E poi l'accesso al luogo santo ci parla completamente di Gesù in ogni arredo che c'è lì in quel luogo. Il candelabro. Gesù dice: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù è la luce. Gesù dice di se stesso: io sono il pane della vita. Nel luogo santo troviamo questo pane fresco, sempre presente. Perché? Perché fino ad oggi era necessario per il mondo intero sapere che la presenza di Dio che soddisfa l'uomo completamente è soddisfatta nel pane che è Cristo Gesù. Noi abbiamo fame, noi abbiamo sete. Gesù dice, non dice solo io sono il pane della vita, ma dice anche chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Il mondo che ci circonda ha fame, ha sete, forse anche tu ti trovi qui affamato e assetato e Gesù dice alla mia presenza c'è acqua, c'è cibo, c'è soddisfazione. Non devi più cercare e non farti ingannare dalle distrazioni di questo mondo che ti presentano del pane effimero, dell'acqua effimera, che ti lascia con maggiore sete. Forse al momento è piacevole quello che il mondo ha da offrirti, le distrazioni, l'intrattenimento e quant'altro, ma mai questo potrà colmare il vuoto che c'è in te. Solo Cristo lo può colmare, perché Lui è il pane della vita. Gesù dice, in Ebrei c'è scritto che Lui è il sommo sacerdote. La parola di Dio dice che Gesù stesso è colui che intercede per noi, quindi l'altare degli aromi, del profumo. È Cristo ovunque. L'altare di Mosè ci parla di Gesù. E nel leggere non puoi annoiarti. Nel leggere Esodo, da ora in poi non hai più il diritto di dire no, passiamo oltre. Perché nella lettura di ogni dettaglio di questo tabernacolo tu hai la possibilità di ricordare a te stesso: io ho la possibilità di accedere alla presenza di Dio in Cristo Gesù. Ed è il dono più prezioso per l'uomo. La presenza di Dio. Mike Pilavacci nella sua predica ha introdotto l'anno dicendo: io in quest'anno voglio conoscere di più Dio. Stiamo parlando di un uomo che ha superato i 60 anni e ha tanto bagaglio di tante storie, di tante avventure vissute con Dio, tanta lettura della parola, tante preghiere, tanti digiuni, eppure il suo desiderio per il 2021 è: io voglio conoscere di più Dio. E io spero che questa possa essere il desiderio che noi viviamo come Chiesa. E ascoltatemi bene, conoscere Dio non significa avere una serie di informazioni su di Lui. Conoscere Dio significa sperimentare la Sua presenza. Puoi dire di conoscere Dio perché sei stato alla Sua presenza. Puoi dire di conoscere Dio perché sei entrato nel luogo santissimo. Ti sei sentito nudo, ti sei sentito vulnerabile, ti sei sentito peccatore e hai assorbito completamente questo abbraccio, questo calore, questa speranza, questo pane, questa luce e tutto questo ti ha trasformato e non fa altro che riportarti in quel luogo giorno dopo giorno. Io posso fare altre 1000 prediche quest'anno per insistere affinché tutti noi passiamo del tempo quotidiano con Dio, ma non saranno le mie 1000 prediche e il mio insistere su questo che ti porterà a tornare a quel luogo. Quel luogo ci torni solo se desideri tornarci. E la mia preghiera è che questo desiderio possa cominciare a bruciare dentro di noi come non ha mai bruciato prima d'ora, Chiesa. Che noi possiamo desiderare stare alla presenza di Dio. Non venire in un luogo nel quale ci viene letto qualcosa e detto qualcosa, o dove qualcuno canta e possiamo osservare, ma che noi siamo parte di quella famiglia che desidera quotidianamente spendere del tempo e conoscere di più il suo creatore. Non lo posso scegliere io per te. Vorrei venire domani a casa tua, aprirti Esodo al capitolo 27 e continuare la mia lettura e dirti: Stai alla presenza di Dio, studia, anche se può sembrare noioso, c'è di più che puoi scavare, c'è di più che puoi ricavare dalla parola di Dio. Ma non posso. Però posso invitarti a farlo, dirti che la cosa più importante della giornata di domani, il tuo tempo alla presenza dell'Onnipotente nel luogo santissimo. In Ebrei, al capitolo 10, versetto 19, c'è scritto questo: avendo dunque, fratelli, libertà, hai libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, quel velo che si è strappato. Vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci. Vedete, l'appello di Genesi, l'appello di Esodo, l'appello dell'intera Bibbia è: avvicinatevi, perché io voglio essere vicino a voi. Dio dice oggi: io voglio essere vicino al mio popolo. Lui vuole soccorrerti, Lui vuole stare con te domani, Lui vuole stare con te a scuola, Lui vuole stare con te al lavoro, Lui vuole stare con te nel tuo matrimonio, nel tuo essere padre, madre, nelle tue amicizie. Lui vuole stare con te e trasformarti e farti camminare splendendo della sua luce. Ma l'appello è a noi: avvicinatevi, perché Dio ha già fatto tutto ciò che era necessario fare per avvicinare noi a Lui. E Lui tende una mano verso di noi, verso ciascuno di noi, ogni giorno. Sta a noi dire: sì, la voglio afferrare, voglio stare con te, voglio godere di questa relazione che così tanto ti è costata. Quando sei innamorato, non deve insistere e convincerti qualcuno di stare con la persona che ami. Tu vuoi, tu desideri, tu ti svegli la mattina pensando a lei, tu ti corichi la sera pensando a lei. E la parola di Dio dice: tornate al primo amore, tornate a quell'innamoramento. Gesù ti dice oggi, ora, avvicinati. Avvicinati. Se vuoi conoscere di più Dio, devi entrare nella sua presenza. E se entri nella sua presenza, tu vieni trasformato dalla sua presenza, e inevitabilmente nell'essere trasformato dalla sua presenza permetti ad altri di conoscerlo. Straordinario, perché la Bibbia dice che noi ora siamo il tempio di Dio. Vi rendete conto? Dentro di noi dimora lo Spirito Santo. Sapete cosa significa? Che noi siamo quel tabernacolo che cammina nell'accampamento e permette a tutte le persone che ci sono attorno di comprendere che possono avvicinarsi a Dio. E come lo comprendono? Da noi, dalla nostra attitudine. Questo è l'anno nel quale noi vogliamo conoscere di più Dio e vogliamo farlo conoscere ad altri. E Mike Pilava ci ha detto giustamente: non puoi far conoscere ad altri quello che tu non conosci. Puoi sapere di Dio, non mi interessa da quanti anni vieni in chiesa, io vengo da quando sono nato in chiesa, ed informazioni ne ho avute da quando ero piccolino. Ma un conto è avere una serie di informazioni di Dio e sapere quello che c'è scritto nella sua parola, e sapere come si canta e come si prega. Un altro conto è vivere la sua presenza. E attraverso quella presenza che tu vivi e sperimenti, attirare altri a viverla con te. Vuoi far conoscere Dio agli altri? La strategia migliore di evangelizzazione e sperimentarlo tu stesso ogni giorno. Io voglio concludere leggendovi un passo che molto poco spesso viene letto quale strategia vincente per l'evangelizzazione nella Chiesa. Ed è una strategia di evangelizzazione che ci viene presentata senza l'utilizzo delle parole. E qui possiamo tutti immedesimarci in quello che l'Apostolo Pietro, pensate, L'apostolo Pietro ha scritto queste parole, ci dà questa strategia. Lui che è stato alla presenza di Gesù stesso, ci dice oggi come noi possiamo guadagnare altri per Cristo. E lo fa presentando la possibilità a mogli credenti di portare salvezza ai loro mariti non credenti. Forse questo è proprio quello che tu stai pregando, che tuo marito possa venire a salvezza. O forse tu sei quel marito che vuoi portare tua moglie a conoscere Dio. Oppure tu sei un figlio e vuoi i tuoi genitori. O sei un amico e vuoi i tuoi amici. Sei un collega e vuoi i tuoi colleghi. Sei un vicino di casa e vuoi per i tuoi vicini di casa. Si applica a tutte le situazioni. E l'apostolo Pietro dice: anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati. Che bel termine. Siano guadagnati. Dio vuole farci guadagnare. Il tuo guadagno più grande nel 2021 non sono i 12 stipendi e la 13ª che prenderai. Il tuo guadagno più grande e meraviglioso sono le anime che puoi attirare alla presenza di Dio. Amen. Affinché siano guadagnati senza parola. Incredibile. L'apostolo Paolo sta dicendo alle mogli, e si può capire anche perché, non parlate. Non servono le parole. Non sono quelle solamente il mezzo. Perché sa che non solo le donne, ma anche noi uomini, siamo a volte molto inclini a parlare, capaci di parlare, di formulare frasi. Ma ciò che tocca l'anima di un uomo, di una donna, non sono delle belle parole, è un cuore arreso. E infatti l'apostolo Paolo aggiunge, dice: siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta, ripete, casta e rispettosa. Quando avranno considerato, quando il mondo considera la nostra condotta, cosa ha modo di dire? Può considerare che c'è qualcosa in noi di così diverso, di così attraente, da portarli a inginocchiarsi e dire: lo voglio anch'io? Questa è la vera evangelizzazione alla quale siamo chiamati. Un'evangelizzazione che è per condotta. E poi dice: il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore. Ascoltate ora. La purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico. Cosa porterà a conversione gli altri? Il nostro spirito. Il nostro spirito dolce e pacifico, perché li riporta a Cristo. Cristo dice: io sono umile e mansueto di cuore. E poi aggiunge: la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di gran valore. Siamo in una società dove l'estetica conta. Tutto è estetica, tutto è apparenza. Dove diamo a dimostrare agli altri chi siamo attraverso i nostri social, attraverso il profilo, attraverso la foto, attraverso il selfie, attraverso quello che possiamo mostrare. Possiamo mostrare tutto quello che vogliamo. Col nostro trucco, con i nostri vestiti, con le nostre facce. Possiamo mostrare, dimostrare di essere belli. Ma quella bellezza non è la vera bellezza alla quale Dio ci invita. La bellezza che attirerà le persone a Lui è la bellezza di un cuore trasformato e di una condotta rinnovata in Cristo Gesù. Vuoi portare salvezza? Vuoi in quest'anno conoscere Dio e farlo conoscere? Allora diventa ambasciatore suo, vivendo nella sua presenza, nel luogo santissimo, e avendo in quel luogo un cuore rinnovato che poi ha da proporsi alla società che ti circonda, a partire dal tuo nucleo familiare, come un cuore diverso. Non un bel vestito, non un'apparenza. E qui in chiesa no, possiamo essere tutti sorridenti e tutti belli, ma è nostro marito, è nostra moglie che ci conosce per quello che noi siamo e vede le nostre macchie, vede le nostre mancanze e vede quello che siamo realmente, ed è quello che conta. Quanto quello tu lo presenti a Dio per essere rinnovato da Lui, affinché questo si trasformi e diventi una migliore testimonianza per il popolo che ci circonda, per il mondo intero. Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Vogliamo entrare alla Sua presenza e fare una scelta questa mattina? Ti chiedo di chiudere i tuoi occhi, anche chi ci segue da casa. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Consideriamo il fatto che noi adesso siamo alla presenza di Dio e questa presenza ci è resa possibile mediante Cristo Gesù. E vogliamo alla Sua presenza dire quello che è il nostro desiderio per questo nuovo anno. Conoscerlo, se questo è veramente il tuo desiderio. Conoscerlo ogni giorno di più e farlo conoscere e guadagnare anime, strappandole dall'inferno. Se sei con me in questo desiderio, ti chiedo di alzare le tue mani. Anche a casa, anche se stai ascoltando questo messaggio in differita, in questo momento nella tua stanzetta, hai la possibilità di sperimentare la presenza di Dio, perché Dio è onnipresente. Non limita la sua presenza geograficamente più in un luogo quale il tabernacolo, ma adesso apre la possibilità di entrare alla sua presenza in ogni luogo, in ogni giorno, dovunque ci troviamo. Vogliamo pregare, voglio pregare per noi chiesa, voglio pregare per ciascuno, possiamo conoscerlo di più. Padre, la mia intercessione ancora diventa una supplica, perché sto pregando ripetutamente questo per la nostra Chiesa. Ti supplico, ti prego con tutto il mio cuore. Facci sperimentare di più della Tua presenza. Togli le distrazioni, facci rendere conto quanto deleterie esse siano. Togli gli idoli, spegni gli idoli, che si abbassi il volume del frastuono della società nella quale viviamo. Vogliamo di più di Te, vogliamo sperimentarti di più nella nostra vita, vogliamo ancora di più avere un cuore cambiato, trasformato, una condotta casta, pura. Solo Tu ce la puoi dare. Solo la Tua presenza, Spirito Santo, possiamo ottenere quella forza di andare contro la nostra carne, contro quello che eravamo abituati a fare, contro l'influenza di questo mondo, contro tutti gli input che ci vengono e ci bombardano per distanziarci da quell'esperienza meravigliosa invece alla quale Tu ci chiami, l'esperienza della Tua presenza, del rinnovamento Tuo in noi e della testimonianza che possiamo offrire a un mondo che è nelle tenebre e che ha fame e ha sete. Riempici di Te, Gesù. Veniamo a Te, Padre. Veniamo al luogo santissimo. Vuoi tu perdonare ogni peccato, ogni carnalità, ogni egoismo, ogni arroganza, ogni avidità, ogni avarizia, ogni gelosia, ogni contesa, ogni mancanza di perdono, ogni pensiero impuro, ogni cosa che abbiamo potuto vivere in questa settimana, in questi giorni. Vuoi tu lavarci ora? Vuoi tu santificare i nostri matrimoni? Vuoi tu santificare le nostre famiglie? Vuoi tu portare la tua purezza nella condotta quotidiana? E vuoi tu venire, riempirci così tanto di te da traboccare? Padre, noi vogliamo quella caratteristica che leggiamo nella parola dei tuoi discepoli, che erano ripieni di Spirito Santo. Noi vogliamo essere ripieni di Spirito Santo. Non vogliamo avere una esperienza sporadica che possiamo richiamare nella nostra memoria, esperienza passata. Vogliamo vivere l'esperienza della pienezza dello Spirito Santo ogni giorno della nostra vita. Dacci disciplina dove manca la disciplina, Padre. Dacci disciplina. Abbiamo così tante abitudini che facciamo. Siamo abituati a perdere tempo, siamo abituati a farci intrattenere, siamo abituati a leggere determinate cose, a guardare determinate cose. Noi vogliamo rinunciare a determinate abitudini per afferrare l'abitudine più importante della nostra vita, stare con te, spendere del tempo con te, alla tua presenza, in preghiera, nella lettura, nell'adorazione, nel ringraziamento, nel meditare. Nel nome di Cristo Gesù, io prego per un rinnovo, io prego per un risveglio nella nostra Chiesa, per un'esperienza della tua presenza, non perché facciamo degli incontri particolarmente straordinari, ma perché cerchiamo la tua presenza ogni giorno e tu ti lasci trovare. Sappiamo che tu ti lasci trovare. Alleluia. Forza Chiesa, vogliamo stare alla sua presenza. Forse devi semplicemente stare in silenzio. Se vuoi piangere, puoi piangere la sua presenza. Se senti di dirgli qualcosa, diglielo. Lui ti ascolta. Se senti di alzare le tue mani, se senti di inginocchiarti, fallo. Fallo, fallo, lui c'è.